des jazzes veut la vie, be un venti boffa fin, sur les greistes de la montagne, spunta plan le jour pitin. Spunta l'alba, la bonura, spuntan prüms ras dal jujom. Se clucer, il gial splendura, in prometta rom e dom e mezz milan. C'è di, c'è not, c'è cil, c'è terra, e tanter per mi. C'è di, c'è not, c'è ciel, c'è terra, e tanter per mia canzun. Va mia corviglia svola, va porta svelt, me scoura mia amor. Jazzes, plein la via, traffic passa d'un contin, beresta quiet e non invlida, tu ci spunta va fin. Oh, l'arma svane, l'amarella, la rumore. Marvella e la tema e il stranglez dall'increscente. C'è di, c'è not, c'è ciel, c'è terra, e tanter per mi urazion. C'è di, c'è not, c'è ciel, c'è terra, e tanter per mia canzon. Ve mia corviglia e porta, am porta svelt il cor da mia amor. C'è ciel, c'è terra, e tanter per mi urazion. C'è di, c'è not, c'è ciel, c'è terra, e tanter per mia canzon. E mia corviglia m'spetta davant porta su il braccio da mia amor. Spettacolo. aspetta.